Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Hotel de Paris, Sanremo. Dopo Sanremo, dove ha vinto il premio per miglior testo con Eden, per Rancore è il momento di farsi conoscere dal pubblico più mainstream. Tutte le canzoni alla fine sono specchio sia di quello che ti circonda, ma soprattutto specchio di quello che hai dentro. Non è facile, secondo me, scrivere le canzoni è un lavoro pericoloso, nel senso che devi entrare dentro di te, nei tuoi labirinti, sfidare te stesso, evolverti. E penso che niente sia così complesso. Per quello ho un rapporto molto quasi spirituale con la musica, nel senso mi serve come mi serve appunto come guida per trovare delle parti di me che se no non conoscerei se non scrivessi appunto le canzoni. Come l'Eden, come l'Eden, come l'Eden prima del lockdown, come prima quando tutto era unito, mentre ora cammino in questo mondo. La più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira. Hai detto che scrivere canzoni a me essere pericoloso, anche perché ti ascoltano grandi, piccoli, ognuno con la sua sensibilità. I tuoi testi così densi, devi farli arrivare a... È difficile. Sì, molto difficile. Non è scontato che arrivino tutti. Sono molto soddisfatto di essere riuscito comunque a portare col nome che ho, con la complessità che ho nei testi, tutto questo in un palco così grande, tra virgolette, rompendo anche un minimo le regole del palco stesso, ma non perché non sul palco, proprio per la presenza in sé. Come me ci sono altri rapper, ci sono altri elementi di rottura, sia l'altro anno sia quest'anno, e questo è bello. Sicuramente è un po' un codice quello che costruisco io, motivo per il quale ho chiamato il mio rapper Medico. E però diciamo che questo giro lo dico all'inizio, quindi all'inizio la canzone inizia dicendo questo è un codice, quindi è vero che sono complesso, è vero che potrebbero non capirmi tutti, però io lo dico all'inizio, quindi. Vabbè, quindi siete avvertiti. Però quanto bisogno hanno gli adulti di capire il rap? Perché a volte lo ascoltano i giovani, gli adulti non ne sanno niente e cascano non dal melo, perché stavolta dal pero. Sì, è vero, questo perché si ha la tendenza a essere un po' come dire, a usufruire della musica, ma anche della cultura in generale, in maniera molto, secondo me, un po' passiva, quando invece cercare di essere un po' più attivi, e il mio rap, diciamo, in un certo senso spero che costringa un po' le persone a farlo, perché non essendo semplice magari devi stare più attento, quindi o non lo vedi proprio, non senti proprio niente, non ti interessa, oppure se ti interessa quel minimo devi come dire, devi giocare, e per giocare devi essere attivo, e secondo me se ci fosse un ascolto più attivo i genitori parlerebbero di più coi figli, perché avrebbero un po' più di voglia di capire dopo la loro interpretazione delle cose qual è l'interpretazione del figlio e come queste due interpretazioni possono avere un punto di contatto, anche di discussione, non lo metto in dubbio. Ma uno che si chiama Rancore, io me lo immagino con gli occhi torvi, un po' abrasivo, invece tu sei tranquillo, sorridente, te lo chiederanno tutti perché Rancore? Perché Rancore? Perché forse è una di quelle cose che devo esorcizzare di più. Quel lato di me più oscuro, che poi si canalizza in un nome, in un'immagine, in un movimento sul palco, in una rabbia vocale, ma che poi alla fine, se la musica è evoluzione di se stessi, nella mia evoluzione la speranza è che il rancore sia sempre di meno, o che comunque venga talmente tanto canalizzato nel nome e in una facciata che poi effettivamente ne resti poco, sia in me e sia magari in chi mi ascolta. Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Rancore. I prossimi appuntamenti con Radio Tube sono il sabato con Social Village e Social Network in diretta dalle 16:00.